Capitolo 19. Come descrivere la costernazione dei presenti? Per la maggioranza di essi, quello fu un momento di orrore assoluto. Sir Thomas, in casa! Era così. Tutti ne furono immediatamente convinti. Nessuno sperò che si trattasse di un inganno o di un errore. L'espressione di Giulia dimostrava con assoluta evidenza che il fatto era indiscutibile. Dopo il primo soprassalto, le prime esclamazioni, per mezzo minuto non venne pronunciata parola. Si fissavano l'un l'altro con espressioni alterate e quasi tutti coglievano nell'evento un malaugurato colpo della sorte avversa, assolutamente inopportuno, spaventevole. Mr. Yates aveva un bel considerarlo solamente come una fastidiosa interruzione per quella sera e Mr. Ashworth era libero di vedervi una propizia soluzione delle sue difficoltà, ma ogni altro cuore si sentiva venir meno, oppresso com'era da un senso di consapevolezza delle proprie responsabilità o da un non ben definito allarme. Ognuno si chiedeva: che ne sarà di noi ora? Che dobbiamo fare? Fu una pausa terribile. Come terribili erano per ogni orecchio il rumore delle porte aperte e richiuse, dei passi affrettati che tutti confermavano l'annuncio. Giulia fu la prima a muoversi e parlare. Gelosia e amarezza erano temporaneamente sopite. Di fronte a quella che era ormai la causa comune, non c'era più posto per l'egoismo. Se non che, proprio nel momento in cui si era affacciata sulla soglia, Frederick stava ascoltando con tenera devozione il racconto di Agatha, premendosi sul cuore la mano di lei. Non appena Giulia notò questo e vide che, a dispetto dello scompiglio prodotto dall'annuncio, egli non mutava atteggiamento e continuava a trattenere la mano della sorella, il suo cuore ferito risentì tutto il bruciore dell'ingiuria. Il viso, prima pallidissimo, le si coprì di rossore. Poi volse le spalle e lasciò precipitosamente la stanza dicendo: «Io non ho paura di comparire davanti a lui». La sua uscita riscosse gli altri. I due fratelli fecero un passo avanti, sapevano che si doveva far qualcosa. Lo scambio di pochissime parole fu loro sufficiente per mettersi d'accordo. Il caso non ammetteva divergenze di opinione. Dovevano recarsi immediatamente in salotto e presentarsi al padre. Maria si unì a loro, nello stesso intento, sentendosi per il momento la più forte dei tre, visto che la stessa situazione che aveva spinto Giulia alla fuga dava a lei l'incoraggiamento più dolce, il fatto che Henry Crawford le avesse trattenuto la mano in un simile momento, un momento di così speciale tensione e importanza, valeva bene giorni e giorni di dubbio e di ansietà. Era la prova di una seria determinazione, così che si sentiva addirittura all'altezza di affrontare il padre con tranquillità. Uscirono dalla stanza, senza prestare attenzione alla reiterata domanda di Mr. Ashworth. «Devo venire anch'io? Non farei meglio a venire anch'io?» Ma avevano appena varcato la soglia che Harry Crawford, assumendosi la responsabilità di rispondere all'ansiosa domanda e incoraggiandolo a non esitare a presentare senza indugio i suoi rispetti a Sir Thomas, lo spinse dietro agli altri con sollecitudine e con sollievo. Fanny restò sola con i Crawford e con Mr. Yates. Era stata totalmente dimenticata dai cugini e siccome l'idea che si faceva dei propri diritti all'affetto di Sir Thomas era troppo modesta per permetterle di mettersi sulla stessa linea dei suoi figlioli, fu lieta di restarsene indietro e di concedersi un attimo di respiro. Si sapeva innocente e tuttavia soffriva, era in preda a un'ansia, un'agitazione da cui gli altri tre non erano neppure vagamente sfiorati. Si sentiva quasi svenire. Tutto il timore che in passato aveva nutrito nei confronti dello zio tornava ad avvisarla e insieme ad esso avvertiva come un senso di compassione per lui e per quasi tutti gli attori dilettanti al pensiero della situazione che li attendeva e delle sue inevitabili conseguenze. Più di tutto, provava un'indicibile angoscia per Edmund. Si era rifugiata in un angolo e lì sedeva tremante, in preda ad ansie e timori, mentre gli altri tre, liberi ormai da qualsiasi ritegno, esprimevano apertamente il loro disappunto, deplorando un così imprevisto e prematuro arrivo, anzi, un così infausto evento, ed esprimendo l'impietoso desiderio che la traversata del povero Sir Thomas avesse preso un tempo doppio, addirittura che gli fosse ancora in antigua. I Crawford erano più accesi in proposito che non Mr. Yates, perché conoscevano meglio il clima familiare di casa Bertram e quindi giudicavano con maggior chiaroveggenza di quanto facesse lui che le conseguenze sarebbero state catastrofiche. Non ci sarebbero state più recite, di questo erano certi. Tutti i loro progetti sarebbero andati a monte e subito. Mister Yates, invece, considerava l'incidente solo come una temporanea interruzione, un guaio limitato a quella serata, e arrivava perfino a prospettare l'eventualità di una ripresa delle prove dopo l'ora del tè. Quando il trambusto delle accoglienze a Sir Thomas si fosse calmato e il padrone di casa avesse ritrovato calma e buon umore. I Crawford lo presero in giro per quell'idea e, trovandosi concordi sull'opportunità di tornarsene a casa in salutati ospiti, lasciando la famiglia a se stessa, proposero a Mr. Yates di accompagnarli e di trascorrere la serata alla canonica. Ma Mr. Yates, che non aveva mai tenuto in alta considerazione i diritti della patria potestà o l'intimità della vita familiare, non vedeva perché mai fosse necessaria una soluzione del genere, per cui si limitò a ringraziarli dicendo che preferiva restarsene dov'era per poter porgere come si conveniva i suoi rispetti al vecchio signore, visto che era tornato. D'altra parte, non pensava che fosse giusto per gli altri che tutti quanti se la dovessero dare a gambe. Proprio allora Fanny stava incominciando a riprendersi e a pensare che se avesse indugiato più a lungo la sua assenza avrebbe potuto apparire una mancanza di riguardo, così, dopo aver ricevuto dai Crawford l'incarico di presentare le loro scuse, li vide che si preparavano ad andarsene mentre lei stessa lasciava la stanza per compiere il terribile dovere di presentarsi davanti allo zio. Anche troppo presto si trovò di fronte alla porta del salotto e, dopo aver sostato un attimo nella speranza di sentir nascere in sé quel qualcosa che pur sapeva non sarebbe mai venuto, quel coraggio che mai aveva trovato davanti a una porta chiusa, con la forza della disperazione girò la famiglia e tutto. Le lampade accese del salotto, l'intera famiglia riunita, le fu davanti. Mentre entrava, il suo nome le colpì l'orecchio. Sir Thomas si stava guardando intorno proprio in quel momento e diceva: «Ma dov'è Fanny? Perché non vedo la mia piccola Fanny?» E scorgendola le venne incontro con una tenerezza che la sorprese e la commosse, chiamandola la sua cara Fanny, baciandola affettuosamente e osservando con sincero compiacimento che era molto, molto cresciuta. Fanny non sapeva che cosa provare, né dove guardare, era sopraffatta. Lo zio non era mai stato così affettuoso, così indicibilmente affettuoso con lei prima di allora. I suoi modi sembravano cambiati. Sotto l'effetto della gioia e dell'emozione, le sue parole suonavano vive e vibranti, e tutto quanto nel suo atteggiamento dignitoso, che un tempo aveva ispirato timore reverenziale, sembrava essersi trasformato in tenerezza. La guidò più vicino alla luce e la guardò nuovamente. Si informò con insistenza della sua salute e poi, correggendosi, osservò che non c'era bisogno di far domande in proposito, visto che il suo aspetto costituiva una sufficiente risposta. E poiché un grazioso rossore aveva sostituito sul viso della fanciulla il pallore di poco prima, egli era giustificato nel credere che la sua avvenenza fosse migliorata al pari della sua salute. Si informò poi circa la famiglia della nipote, e specialmente di William, e la sua gentilezza fu tale che Fanny si rimproverò di avergli voluto così poco bene e di aver considerato il suo ritorno come una calamità. E quando, facendosi coraggio, gli alzò gli occhi in viso, vide che era dimagrito e che aveva il colorito abbronzato, l'aspetto affaticato, logorato dalla stanchezza e dal clima torrido. La sua tenerezza aumentò e sentì una grande pena pensando a quante insospettate contrarietà lo attendevano. Sir Thomas era davvero l'anima della compagnia che ora, dietro suo suggerimento, si mise a sedere in circolo vicino al caminetto acceso. Era lui che, a buon diritto, conduceva la conversazione e la deliziosa sensazione di essere nuovamente a casa, al centro della sua famiglia, dopo una così lunga separazione, lo rendeva insolitamente comunicativo e loquace. Era pronto a dare ogni informazione sul suo viaggio e a rispondere a ogni domanda posta dai due figli, quasi ancor prima che fosse formulata. Gli affari in Antigua ultimamente avevano ripreso a prosperare a pieno ritmo e lui era sbarcato a Liverpool prima del previsto, avendo avuto l'opportunità di imbarcarsi su un vascello di proprietà privata, senza dover aspettare il postale. E tutti i minuti particolari delle sue iniziative, delle sue avventure, dei suoi arrivi, delle sue partenze furono prontamente riferiti, mentre, seduto al fianco di Lady Bertram, girava lo sguardo, con soddisfazione sincera e sentita, sui visi che gli facevano corona. E a tratti, interrompendo il suo narrare per ripetere quanto fosse lieto di averli trovati tutti a casa, benché fosse arrivato inaspettatamente, tutti riuniti proprio come aveva desiderato, pur non potendo essere sicuro che sarebbe stato così. Mr. Rushworth non fu dimenticato. Già un'accoglienza estremamente amichevole, una cordiale e calorosa stretta di mano ne avevano salutato l'ingresso ed ora veniva incluso, con sottolineata intenzione, fra quanti erano più intimamente connessi a Mansfield. Non vi era nulla di sgradevole nell'aspetto di Mr. Rushworth e Sir Thomas, a prima vista, lo trovò simpatico. Da nessuno di quanti lo circondavano era ascoltato con così ininterrotto e autentico piacere come da sua moglie. Lady Bertram era davvero felicissima di vederlo e la sua naturale placidità era così tonificata dal suo arrivo improvviso da metterla in uno stato quasi vicino all'agitazione, quale non ne aveva mai provato negli ultimi 20 anni. Per alcuni minuti si era sentita eccitata ed era ancora così sensibilmente animata da metter via il suo lavoro, allontanare Pug dal suo fianco e riservare la sua attenzione e tutto il resto del sofà al marito. Non avvertiva per nulla e per nessuno ansie che potessero attenuare il suo piacere. Il suo tempo era stato speso in modo irreprensibile durante l'assenza del marito. Aveva fatto una gran quantità di lavoro a piccolo punto e molte yarde di frangia ed era pronta a rispondere della buona condotta e delle utili occupazioni della gioventù di casa con la stessa tranquilla disinvoltura con cui avrebbe risposto della propria. Era tanto piacevole per lei rivedere il marito, udirlo parlare, avere l'orecchio allietato e tutta la sua capacità di comprensione assorta e colmata dai racconti di lui, che ora cominciava a rendersi conto di quanto le sarebbe terribilmente mancato e di quanto le sarebbe stato impossibile sopportare una sua assenza prolungata. La felicità di Mr. Norris non poteva certo essere paragonata a quella della sorella. Non che fosse disturbata da molti timori circa una possibile disapprovazione di Sir Thomas quando gli fossero note le presenti condizioni della casa al momento, perché il suo buon senso era stato talmente obnubilato che, eccetto per l'istintiva precauzione con cui aveva fatto sparire il mantello di raso rosa di Mr. Rushworth, quando il cognato era entrato, non si poteva dire che dimostrasse un qualche segno di allarme. L'indisponeva invece il modo di quel ritorno, non le aveva lasciato nessuna opportunità di darsi da fare. Invece di mandarla a chiamare fuori dalla stanza e così darle la possibilità di vederlo per prima e divulgare la felice notizia per tutta la casa, Sir Thomas, con ragionevole fiducia nella saldezza di nervi di sua moglie e dei suoi figli, aveva lasciato quell'incombenza al maggiordomo e lo aveva seguito quasi istantaneamente in salotto. Mrs. Norris si sentiva defraudata di un ufficio che aveva sempre considerato di sua spettanza, sia che la notizia riguardasse l'arrivo o la morte di lui. Ora tentava di darsi da fare senza che vi fosse nulla per cui darsi da fare e si adoperava per sembrare importante quando non c'era bisogno che di tranquillità e di silenzio. Se solo Sir Thomas avesse acconsentito a mangiare qualcosa, lei avrebbe potuto recarsi dalla governante dando le disposizioni confusionarie e aggredito i domestici ordinando di spicciarsi, ma Sir Thomas rifiutò risolutamente di pranzare, non voleva prendere nulla, assolutamente nulla, finché non avessero servito il tè. Preferiva senz'altro aspettare l'ora del tè. Tuttavia, a intervalli, Mrs. Norris insisteva proponendo qualche altra cosa e nel momento più appassionante della traversata di ritorno, mentre il cognato raccontava dell'avvistamento di una nave corsara francese, lei interveniva tagliandogli la parola per proporgli un po' di minestra. Certamente, caro Sir Thomas, una fondina di minestra sarebbe più opportuna per lei che non il tè. Prenda una fondina di minestra. Sir Thomas non perse la calma. Sempre la stessa preoccupazione per il benessere degli altri, cara Mrs. Norris, fu la sua risposta. Ma davvero, preferisco prendere solamente il tè. Bene, allora Lady Bertram forse dovrebbe ordinare di servire subito il tè. Che ne direbbe di far fretta a Bedley? Mi sembra in ritardo questa sera. L'ebbe vinta e il racconto di Sir Thomas poté riprendere. Finalmente vi fu una pausa. Quello che aveva da comunicare al momento era stato detto e gli sembrò sufficiente guardarsi intorno lietamente, fissando lo sguardo ora sull'uno ora sull'altro dei visi diletti che lo circondavano. Ma la pausa non fu lunga. Nella gioia che l'animava, Lady Bertram si fece eloquente e quali non furono le intime reazioni dei suoi figli udendola dire: «Come pensa che i ragazzi si siano divertiti da ultimo, Sir Thomas? Hanno recitato! Siamo stati tutti presi dalla passione di recitare!» Davvero? E cosa hanno recitato? Oh, le diranno tutto loro stessi. Il tutto sarà presto detto, esclamò Tom precipitosamente, pur affettando indifferenza. Ma non merita che noi si infastidisca mio padre con simili cose in questo momento. Basterà parlarne domani, signore. Abbiamo solo fatto un tentativo, giusto per far qualcosa e per distrarre mia madre in queste ultime settimane. Così abbiamo messo su alcune scene, una cosetta da nulla. Dall'inizio di ottobre in poi abbiamo avuto pioggia così incessante che siamo stati praticamente confinati in casa per giorni e giorni di seguito. Dal 3 fino ad oggi non sono quasi uscito con un fucile. La caccia è stata intollerabilmente buona nei primi 3 giorni, ma in seguito nulla da fare. Il primo giorno io ho battuto il bosco di Mansfield e Edmund i boschetti al di là di Easton. E fra tutti e due abbiamo portato a casa 6 coppie di volatili. Anzi, ciascuno avrebbe potuto abbatterne 6 volte tante, ma abbiamo rispettato i suoi fagiani, signore, glielo assicuro, tanto quanto lei poteva desiderarlo. Penso che troverà i suoi boschi non meno ricchi di selvaggina di quanto lo erano prima. In vita mia non ho mai visto il bosco di Mansfield pieno di fagiani come quest'anno. Spero, signore, che uno di questi giorni ci vada anche lei a cacciare. Per il momento il pericolo era stornato e anche l'ansia di Fanny si calmò, ma quando dopo il tè Sir Thomas si alzò dal sofà e disse che, ora che era finalmente a casa sua, non poteva non andare a dare un'occhiata al suo amatissimo studio, fu di nuovo presa dall'agitazione. Sir Thomas aveva lasciato il salotto prima che qualcuno riuscisse a dire qualcosa per prepararlo ai cambiamenti che avrebbe trovato, e una pausa piena di allarme seguì alla sua uscita. Edmund fu il primo a parlare. Qui bisogna far qualcosa, disse. È tempo di pensare ai nostri ospiti, aggiunse Maria, che sentiva ancora la propria mano stretta sul cuore di Harry Crawford e poco si curava di ogni altra cosa. Dove hai lasciato Miss Crawford, Fanny? Fanny disse che lei e il fratello se ne erano andati e riferì la loro ambasciata. Allora il povero Yates è completamente solo, esclamò Tom. Andrò a prenderlo. Non ci sarà di poco aiuto quando ogni cosa salterà fuori. Si diresse alla volta del teatro e vi giunse proprio in tempo per assistere al primo incontro fra suo padre e l'amico. Sir Thomas era stato non poco sorpreso di trovare delle candele accese nel suo studio e nel dare un'occhiata attorno di notare altri segni che ne rivelavano la recente occupazione, nonché la generale confusione della disposizione dei mobili. La rimozione della libreria, che era stata spostata dalla posizione che solitamente occupava contro la porta che apriva nella sala da biliardo, lo colpì in modo speciale, ma ebbe a malapena il tempo di sentirsi sbalordito da tutto quanto vedeva, perché dalla sala da biliardo giunsero al suo orecchio suoni che accrebbero il suo sbalordimento. Qualcuno là dentro stava parlando a voce altissima, una voce a lui sconosciuta, anzi, più che parlare, gridava. Andò verso la porta, rallegrandosi in quel momento di avere modo di passare nella stanza attigua e, spalancata la porta, si trovò su un palcoscenico direttamente di fronte a un delirante giovanotto che sembrava sul punto di investirlo facendolo cadere all'indietro. Proprio nel momento in cui Yates, accorgendosi di Sir Thomas, trasaliva col più violento sobbalzo mai dato durante lo svolgersi di tutte le prove, a Tom, che entrava all'altro capo della stanza, occorse più fatica di quanta ne avesse mai spesa in vita sua per mantenersi serio. L'espressione solenne e sbalordita di suo padre, in quella sua primissima comparsa sulle scene, e la graduale metamorfosi del veemente barone Wildenheim nel ben educato e disinvolto Mr. Yates, che si inchinava e presentava le sue scuse a Sir Thomas, offriva una scena di tale genuina comicità che egli non avrebbe voluto perderne lo spettacolo per nessuna cosa al mondo. Era, secondo ogni probabilità, l'ultima scena che mai sarebbe stata recitata su quel palcoscenico, ma Tom aveva l'assoluta certezza che nessun'altra avrebbe potuto essere più gustosa. Il teatro chiudeva in bellezza. Tuttavia non era il momento di indulgere ad allegre fantasticherie. Tom doveva farsi avanti a sua volta e intervenire nella presentazione. E, non senza sperimentare molto imbarazzo, fece del suo meglio. Sir Thomas accolse Mr. Yates con tutta l'apparente cordialità che gli doveva alla sua reputazione di correttissimo ospite, ma in realtà era tanto lontano dall'essere soddisfatto di quella forzata presa di contatto quanto dall'approvare il modo in cui era iniziata. La famiglia e la parentela di Mr. Yates gli erano abbastanza note da far sì che quel suo essergli presentato in qualità di amico intimo del figlio, un altro dei suoi 100 amici intimi, gli fosse assai sgradito, e ci volle tutta la felicità di ritrovarsi a casa e tutta la indulgenza che ne poteva derivare per trattenere Sir Thomas dal manifestare la propria collera indignata nel trovarsi nella sua propria casa sconcertato e coinvolto in una grottesca esibizione nel bel mezzo di una sciocca montatura teatrale, costretto in un così disdicevole momento ad accettare di entrare in relazione con un giovanotto che era sicuro di non poter approvare e la cui volubile sfacciataggine in quei primi 5 minuti lo facevano apparire come il più disinvolto dei due. Tom intuiva i sentimenti del padre e, desiderando di tutto cuore che gli potesse essere sempre ben disposto ad esternarli solo in parte, incominciò a rendersi conto più chiaramente di quanto l'avesse mai fatto che nel comportamento suo e degli altri poteva esserci qualcosa di offensivo, che il padre aveva i suoi buoni motivi per guardare a quel modo il soffitto e gli stucchi della stanza e che quando egli si informò con pacata gravità circa la sorte della tavola da biliardo, la sua era semplice curiosità. Alcuni minuti furono sufficienti per confermare, nell'uno e nell'altro, queste sgradevoli sensazioni e dopo che Sir Thomas ebbe pronunciato con un certo sforzo alcune parole di pacato consenso in risposta a un ardente appello di Mr. Yates in favore della felice sistemazione dell'ambiente, i tre gentiluomini tornarono insieme nel salotto, Sir Thomas con un'aumentata gravità che non passò inosservata ai presenti. «Vengo dal vostro teatro», disse compostamente mentre si metteva a sedere. «Mi ci sono trovato alquanto inaspettatamente. La sua vicinanza al mio studio, ma a vero dire anche sotto ogni altro aspetto, mi ha colto di sorpresa, dato che non avevo minimamente sospettato che la vostra attività teatrale avesse assunto un così serio carattere. Tuttavia, mi è sembrato un lavoro ben fatto fin dove ho potuto giudicare a lume di candela e fa onore al mio amico Christopher Jackson». E a questo punto avrebbe lasciato cadere l'argomento e sorseggiato il suo caffè in pace, trattando questioni familiari di carattere più distensivo. Ma Mr. Yates, che mancava di quel tanto discernimento atto a recepire tutto il significato di quanto Sir Thomas aveva detto, del ritegno, della discrezione e della delicatezza che avrebbero dovuto consigliargli di lasciargli condurre la conversazione a suo piacimento, accontentandosi di unirsi agli altri con la minore invadenza possibile, ricominciò a parlare di teatro, infastidendo il padrone di casa con domande e osservazioni in proposito e costringendolo alla fine ad ascoltare l'intera storia della delusione da lui subita a Ecclesford. Sir Thomas porse orecchio alla storia con la massima cortesia, ma vi riscontrò molti particolari che offendevano il suo senso del decoro e confermavano il suo giudizio negativo sul modo di pensare di Mr. Yates. E quando quello ebbe finito, si limitò a manifestargli la sua comprensione con un inchino appena accennato. «Questa è stata, infatti, l'origine del nostro progetto», disse Tom dopo un momento di riflessione. «Il mio amico Yates ha portato da Ecclesford il contagio che, lei sa bene, signore, si è diffuso come sempre queste cose si diffondono, tanto più rapidamente per l'averci lei così spesso incoraggiati in passato a questo genere di interesse. È stato come ripercorrere una strada nota». Mr. Yates riprese il tema impostato dall'amico non appena gli fu possibile e diede immediatamente a Sir Thomas il resoconto di quanto avevano fatto. Gli descrisse la progressiva crescita del progetto, la felice risoluzione delle loro prime difficoltà, l'ottima condizione in cui ogni cosa si trovava attualmente e riferì il tutto così accecato dal suo interesse dominante da non notare minimamente l'atteggiamento imbarazzato di molti dei suoi amici che se ne stavano lì seduti in silenzio. Il mutare delle loro espressioni, l'agitarsi, i loro inquieti e allarmati. Non solo, ma da non vedere neppure l'espressione del viso su cui i suoi occhi erano fissati, dal vedere la fronte incupita di Sir Thomas contrarsi mentre egli portava lo sguardo con indagatrice serietà sulle figliole e su Edmund, indugiando specialmente su quest'ultimo, esprimendo una rimostranza, un rimprovero di cui egli fu acutamente conscio. Al pari di Fanny, del resto, che spinta la propria sedia dietro l'angolo del sofà occupato dalla zia e così schermata, seguiva tutto quanto si svolgeva davanti a lei. Non avrebbe mai immaginato di vedere lo zio volgere a Edmund uno sguardo così carico di riprovazione e il sentire che fino a un certo punto essa era meritata costituiva una penosa aggravante. L'espressione di Sir Thomas diceva tacitamente: «Contavo sul tuo buonsenso, Edmund. Cosa ti è venuto in mente di fare?» E lei avrebbe voluto inginocchiarsi davanti allo zio e parole non dette le gonfiavano il cuore. «Oh, non lui! Guardi così tutti gli altri, ma non lui!» Mister Yates continuava a parlare. «Per dire la verità, Sir Thomas, questa sera eravamo nel bel mezzo di una prova quando lei è arrivato. Stavamo provando i primi tre atti e non senza successo nell'insieme. La nostra compagnia in questo momento è così scompigliata, visto che i Crawford se ne sono andati a casa, che per questa sera non si può fare altro, ma se domani sera ci vorrà onorare della sua presenza, non avrò timori circa il risultato. Contiamo sulla sua indulgenza, naturalmente, da giovani attori quali siamo, contiamo sulla sua indulgenza. La mia indulgenza sarà concessa, signore, rispose Sir Thomas gravemente, ma senza altre prove». E con un sorriso che attenuava la precedente severità aggiunse: «Sono venuto a casa per essere felice e indulgente». Poi, senza rivolgersi a nessuno in particolare, aggiunse tranquillamente: «Le ultime lettere che ricevetti da Mansfield parlavano di Mr. e Miss Crawford. Li trovate una piacevole relazione?» Tom fu l'unico pronto a rispondere e non nutrendo speciale interesse per l'uno o per l'altra, né essendo afflitto da gelosia di innamorato o di attore, fu in grado di parlare in ottimi termini di tutti e due. «Mr. Crawford è un piacevolissimo giovane gentiluomo e sua sorella una fanciulla gentile, graziosa, elegante e vivace». Mr. Rushworth non seppe tacere oltre. «Non dico che, tutto considerato, non abbia modi da gentiluomo, ma dovrebbe dire a suo padre che, quanto a statura, non va oltre 5 piedi e 8 pollici, altrimenti si aspetterà un uomo di bella apparenza». Sir Thomas non afferrò il concetto e lo guardò con una certa sorpresa. «Se devo dire quel che penso», continuò Mr. Rushworth, «secondo me è assai spiacevole far prove continuamente. È come fare indigestione di una cosa buona. Recitare non mi piace più tanto come da principio. Penso che ci occupiamo assai meglio standocene comodamente seduti qui tra noi, senza far nulla». Sir Thomas l'osservò nuovamente, poi rispose con un sorriso di approvazione: «Sono felice di trovare che il nostro modo di sentire in proposito è tanto simile. Ciò mi procura una sincera soddisfazione. Che io debba essere cauto e stare allerta e provare molti scrupoli che i miei figlioli non sentono è cosa perfettamente naturale, e lo è anche che il valore che io do alla tranquillità domestica, a un focolare che escluda gli svaghi rumorosi, oltrepassi di molto quello che vi attribuiscono loro. Ma sentire tutto ciò alla sua età è una felicissima circostanza per lei e per tutti quelli che con lei sono in relazione, e registro con piacere l'importanza di avere un alleato di tanto peso». Sir Thomas intendeva esprimere l'opinione di Mr. Rushworth con parole più forbite di quanto questi sapesse impiegare. Certo, non si aspettava di trovare un genio in Mr. Rushworth, ma lo considerava un giovanotto bene intenzionato e di solido carattere, con punti di vista migliori di quanto lo fosse il suo modo di esprimerli, e come tale intendeva concedergli la massima stima. Tuttavia fu impossibile a molti degli altri non indulgere a un sorriso, e Mr. Rushworth, da parte sua, non seppe come reagire a parole ad un così positivo apprezzamento. Ma col sembrare, come realmente si sentiva, compiaciuto al più alto grado per la buona opinione di Sir Thomas e col non dir quasi nulla in risposta, operò nel migliore dei modi per conservare quella buona opinione ancora per un po'.